fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera a tutti da Ristoradio Convento, benvenuti, come ormai ci piace dire, special edition, perché da qualche settimana abbiamo cominciato a aprire questo spazio anche la domenica sera durante la Pericena Italiana qui al Convento di Lonato, non solo venerdì e sabato, quindi lo facciamo, come dire, girare a tutto tondo durante le nostre tre serate. E per inaugurare questa domenica sera abbiamo tre ragazze che sono venute a trovarci, vogliosissime di provare la radio, soprattutto perché una di loro ha i capelli rossi, quindi essendo lo studio rosso si è vista immedesimata, pensava ci fossero tanti suoi cugini all'interno dello studio, si è sentita evidentemente, come dire, ha trovato un feeling particolare con lo studio, e quindi le presentiamo, le facciamo chiacchierare un po'. Vai, come vi chiamate? Patrizia La Rossa. Patrizia La Rossa, cioè non nel senso, La Rossa è la non è un nome completo, giusto? Cioè no. Patrizia, punto. Poi La Rossa è una definizione. La è il secondo nome, Rossa il terzo. Ah, ok, no, perfetto. Addirittura un terzo nome. Sì. E che c'hai il sangue non blu, di più bluissimo. Perché sai che sono solo i nobili che hanno i due nomi. Lei ha addirittura tre. Quindi come oltre la nobiltà, incredibile, un nuovo concetto di nobiltà 2.0, esatto. Fantastico. Poi solo Cristina, una umile Cristina, una semplice Cristina, una plebea, sì, che fa la schiava ovviamente nella vita, sì, perché e la Patti invece rimarrà qua a piedi, per esempio. Ah, bello, ma non la vuol portare via? Io però sono stata gentile, ho dato il posto davanti, grande, ma perché la Patti mi diceva che voleva rinforzare i polpacci, e quindi è per quello che voleva tornare a casa a piedi, perché c'è i polpacci deboli e vuole tonificarli in vista della bella stagione. Ma e poi non la dimentichiamo, perché abbiamo qui un talento canoro e a tutto artistico, a tutto tondo, insomma di livello, ed è giusto che il mondo la scopra e la conosca. Ciao a tutti, io sono Bediana. Bediana, benissimo. E vuoi parlare molto sexy, sono d'accordo. E vuoi parlarci della tua carriera artistica, dove ti vedremo, che tu hai il tour, no? So che sei in tour in queste settimane. Dove ti vedremo? In che date? New York. A New York. Neanche qua in zona. Esatto, no, New York, dove ti esibirai? Surprise. Perché dovete sapere che Bediana ha, come dire, uno zoccolo di fan così forte, che non è una parolaccia, zoccolo, cioè significa molti. Pensavo avuto un attimo di tentennamento sullo zoccolo, ha avuto un tentennamento. Dicevo, ha un gruppo, così almeno non si spaventa, di fan così forte e così attivo, che lei la mattina dice dove suonerà la sera e fa il tutto esaurito in 12 ore. Esatto. Ha tantissimi followers. Esatto, tantissimi followers. Followers che la followano dappertutto. E cosa porterai in giro? Il tuo nuovo album? Cosa farai sentire? Le mie due veline. Ah, loro due. Fai uno spettacolo su di loro. La plebea e la rossa. Lei canta tu. Lei canta tu. Noi balliamo. Ah sì, e voi fate le parole. Potreste fare un karaoke vivo, certo. Un karaoke umano, no? Perché noi possiamo voi fare anche adesso in diretta. Un karaoke umano? Mi sembri una pornata. Infatti mi è venuto un po' di brivido qui, mi si è un attimino arrivata la pelle d'oca. Cosa volete fare in diretta? Quello che vuoi. Non dire così, che sennò Bediana mi impattisce subito e mi si esalta. Mi hanno lasciato il microfono a me, bellissima. Questa ragazza, le hanno asportato gli ormoni da piccola o li hanno sparati uno dopo l'altro? Hanno gettato ormoni oltre la pappa. Ormoni lei mangiava, da dare a tutti. Pappa e ormoni, pappa e ormoni. La Patrizia, sì, giusto, lei vuole. Giustamente, alla rossa la Patrizia. Perché giustamente la Bediana, essendo un'artista di fama internazionale, non può rovinarsi la reputazione in questo modo. Allora, da dove venite, ragazze? Io Vobarno, Brescia. Perfetto. Io Prevalle. Prevalle? Gavardo, ma ormai sei del mondo. Sì, ormai del mondo, benissimo. Volevo stare qui piedi per te. Sì, beh, insomma, tu, ma è giusto, tu sei partita come ragazza di provincia e poi ovviamente hai sfondato. E quindi anche qui sullo sfondato non ti preoccupare, non in quel senso, è proprio il senso artistico. E quindi ormai è cittadina del mondo. Al di là di Bediana, che insomma abbiamo capito cosa fa, voi cosa fate nella vita? Commessa in un supermercato. Ok. Lavoro in uno showroom di arredo bagno. Ci hai pensato un attimo, però, nel senso che non sai se tornerai? Mentire oppure no? Ah, ok, ok. No, pensavo che stessi pensando se tornavi a lavoro oppure. Ok, ok, benissimo, benissimo. E cosa vi ha portate qui questa sera? Siete ballerine, mangerete, cioè, non lo so. Fare un po' di tutto. Ma un po' di tutto. Io volevo andare a ballare latinoamericana. Sì, esatto. Ma alla fine ti abbiamo visto, veramente. Sono rimaste, esatto, folgorate. La Patrizia, la rossa. Niente, che ha un po' gli ormoni che c'è. Esatto, sono controllati, ormoni, esatto. Voleva fare tutto. Tutto, tutto, vuole far tutto. Esatto. Vedrai che piano piano riesce a... Beh, latino l'avete fatto o non ancora? Sì. Ah, meno male, no, perché sennò se mi va a casa con la voglia di latino poi è finita, perché... io però, con la tua voglia di latino. Ah sì, tu c'hai la voglia di latino. C'è proprio la faccia della latina. Sì, sì, c'è proprio la faccia da latina, da latina. Qual è la tua declinazione preferita, ad esempio? No, no, della coniugazione, cioè della lingua latina, no? Non parlava... Ah, non era quel tipo di latino, pensavo della lingua io. Alfa. Alfa è una macchina. Ah, scusa, pensavo fossi una linguista appassionata della cultura classica, no? Tanto Alfa è... non è latino, no? È una macchina, la Alfa. Andiamo non penso. Andiamo oltre, che noi qui la cultura, come dire, siamo anche oltre la cultura, oltre che oltre la novità. E allora, volete mandare un messaggio, volete dire qualcosa, visto che avete un microfono davanti ai vostri microfono, si parla. No, perché ho chiarisco per la rossa, no, perché con gli ormoni in subbuglio non vorrei mai che o mi partisse ad azzannarlo, vabbè, altre cose che voi maggiorenni non potete capire. E volete dire qualcosa? Salutiamo la mano. Salutiamo la nostra amica Manu, che Manu è a casa ammalata. E dov'è? Poverina. Poverina. Oh, quando sta meglio ce la dovete portare. Certo. La nostra premura. Ok, ma voi... Lei piace cantare? Oh, allora, brava, perché... ma è brava? Beh, anche voi ve la cavate, cioè, grazie. Avete... cioè, l'anno prossimo c'è la stella a Los Angeles, sulla Wall of Fame. Sulla Walk of Fame. È Broadway, lei, praticamente. Esatto. Insomma, non capisco che cos'altro vogliate una volta che avete lei, insomma, non vi manca altro. Non vi manca altro. Va bene, quindi anche noi la salutiamo, ci uniamo. È raffreddore di stagione, sì. Ah, buono, quindi passeggero. Voi ragazze volete dire qualcosa? No, ciao. Ciao, che è un messaggio importante. Siete tutti simpatici. Bene, che è il modo per dire non avete altre belle qualità. Di solito quando... No, vabbè, io sono bella, sono simpatica, sono... No, ma parlavo di noi. Okay. Parlavo di noi. Perché... No, non l'avevo capito. No, dicevo... Pensavo parlassi di me. No, parlavo di noi, perché è chiaro che voi donne, quando a un uomo dite sei simpatico, cioè in realtà... come dire, siccome l'uomo ha un solo neurone che gira, quel neurone si esalta in maniera incredibile. Ma la rea... No, io no, perché sono consapevole che alla 148esima volta in cui mi dicono sei simpatico e poi non si quaglia, significa che in realtà non c'è altro complimento da fare. Quindi uno dice, vabbè, gli dico che è simpatico, così lui è contento, poi in realtà però non me ne frega nulla e mi sta anche antipatico. Quindi era solo per sottolineare a tutti gli uomini in ascolto. No, io è realista. No, realista, esatto, io analizzo la realtà. Era solo per essere di supporto psicologico e fisico a tutti gli uomini all'ascolto, dicendo che se sentite dire da una donna sei simpatico e non aggiunge altro, fatevi due domande. Tutto anche qua. Un papillon da urlo, eh. Eh sì, anche questo lo dicono. Anche questo lo dicono. Sì. È tanta roba. Sì, anche questo dicono. Notano tutto il papillon e non notano nient'altro. Quindi vedi, c'è anche le bretelle rosse come i miei capelli. Esatto, vedi, ho fatto per te. Penso che ho tutti i colori in base. Chi è? Lì? Ah sì, ciao, ma amica mia, quella è mia sorella, cugina. Ciao, salutate assolutamente, perché un siamo... saluto alla cugina bionda che la ci cugina sta bionda? Facendo un video. Siamo adesso, esatto, siamo super instagrammati, quindi adesso possiamo... è felice, perché quando instagramma la gente lei è felice. Cioè, sì, c'ha questa... una passione per la storia, c'ha il pollice tattile ormai. Anche lei? Sì? Beh, si capisce, insomma deve dar da mangiare ai suoi fan che richiedono scene di quotidianità. Ok, vuoi dire qualcosa? Tu che sei l'unica che non ha mandato messaggi? Beh, d'altronde dopo il messaggio della Cristina, così pieno, importante, insomma, è difficile parlare, insomma, anche... Possiamo dire che una star come Bediana non parla vanvera. Non parla vanvera, giusto. Controlla, certo. Lei parla solo nel momento del bisogno. Certo, e dice cose, insomma, ben selezionate e che lasciano il segno, sempre. Tu poi, cioè... Anche lei non ha mai parlato, d'altronde, in questi minuti, non ho mai sentita. Io osservo. È un po'... No, adesso parlavo di te. Ah! Sì. È timida, è timida, ragazza, è riservata, è chiusa, e quindi vabbè, la sbloccheremo. Sono chiusa, ragazzi, piano piano. Sono chiusa. Sì, chiusa per ferie, però domani alle 8 ricomincia l'attività. E quando sei chiusa per ferie, quindi? No, no, domani purtroppo ricomincia a lavorare. Ah, oggi ok, è l'ultimo niente. Giorno di ferie. Di ferie? Niente, quindi domani ti riapri. Perfetto, si riapre, allora saremo, ci tocca riaprirci. Saremo tutti lì in coda a timbrare il cartellino e aspettare il bigliettino al nostro turno. Per, intanto Bediana continua nel suo remake. Si slaccia, esatto. è calorosa perché, questa Bediana. No, perché praticamente, come già vi accennavo prima in aria YouTube, lei sta cercando di essere scritturata per il remake di 9 settimane e mezzo. E quindi continua a provare la scena dello slaccia e allaccia. Perché si tiene allenata, no? Perché... Sì, può essere. Ma perché lei ha capito che ci sono in sala dei registi, no? Ci sono in sala dei registi che stanno cercando di scritturare gente e quindi si fa notare dicendo: guarda, io sono qui che aspetto. D'altronde, se ha avuto questo successo, non è che l'ha avuto per caso. Mi si è anche emozionata la bretella addirittura nel parlare del successo di Bediana. Mi si è emozionata la bretella. Sì, no, io le ho già aperto la fanpage su Instagram da mesi, è rimasta a 0 follower, però io l'ho aperta in attesa. Sì, però non so capire. Sì, esatto, brava. Io, ma è probabilmente colpa mia che non so portare, esatto. Non so portare gente. Adesso ci lavorerò. Sì, adesso ho più elementi. Certo, ho più elementi. Insomma, il contatto umano è fondamentale, così potrò dare contenuti vivi e reali alla nostra fanpage. Bene, credo che con questi minuti abbiamo cambiato il mondo, perché abbiamo detto cose di un certo livello. Ho appena ricevuto una telefonata che Alberto Angela si è licenziato dalla Rai perché ha sentito parlare noi, ha detto: troppa cultura questi ragazzi, quindi me ne vado io. Si è sentito a disagio. Brava, si è sentito inferiore per la prima volta nella sua vita. Quindi niente, noi andiamo a registrare il programma nostro su Rai 1 che andrà su tutto il mondo la domani sera e a firmare autografi per Bediana, che adesso dovrà giustamente fare autografi per tutti i suoi abbiamo fan. Abbiamo cercato un bodyguard anche perché adesso uscire è un casino, adesso andiamo a reclutarne qualcuno. Grazie mille ragazze, grazie, e buona fine festa. Ciao. Ciao.